Elena Arvigo, che sarà in scena con il suo spettacolo I monologhi dell'Atomica al Teatro di Villa Torlonia la prossima domenica 26 novembre. Intanto benvenuta al Radioteatro su Onda Rossa. Grazie a voi per ospitarmi in questo spazio. Elena, allora, per chi ci ascolta, diciamo subito, raccontiamo brevemente la storia, di cosa parla questo lavoro. Sì, allora, intanto diciamo che anche spenderei una parola su Villa Torlonia, nel senso che praticamente certo. da adesso, cioè dal nostro spettacolo, parte un po' la programmazione col Teatro di Roma, e quindi si prende in carico, oltre al Teatro India, il Teatro di Villa Torlonia. Ed è una cosa interessante, perché sarà uno spazio dedicato proprio al teatro di parola e al teatro, cioè nel senso monologhi, perché è un teatro un po' particolare, piccolo, è molto prezioso, storico, ma piccolino, e anche progetti che abbiano un po' una vocazione in qualche modo, non dico civile, però un po' sì, perché poi questa parola civile lascia sempre un po' di tempo, tutto il teatro è civile, dovrebbe certo, essere certo. Diciamo, nel caso specifico lo è proprio tanto, perché lo spettacolo parla, I monologhi dell'Atomica, di due eventi importanti, storici, che sono Nagasaki e Chernobyl. Quindi Chernobyl, 26 aprile del 1986, e invece Nagasaki il 9 agosto del 45, e attraverso storie di persone. Quindi uno è, diciamo, ispirato, è tratto da Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, premio Nobel per la letteratura del 2015, e l'altro di Racconti dell'Atomica di Kyoko Hayashi. È un po' il mio modo, cioè raccontare le storie delle persone, era quello che diceva Svetlana sempre, che è una grandissima scrittrice, che invito tutti a leggere tutti i suoi libri, no? Una frase molto bella di una contadina che Svetlana intervistò, e le disse: non sono sicura di riuscire a scrivere la sua storia, e la contadina disse: guardi, non è importante, per me è importante che quando va via lei si giri a guardare la mia casetta non una ma due volte. Quindi è una piccola frase, ma per me è molto importante, perché ricorda, cioè mette l'accento sulla memoria, che non è solo la memoria dell'evento storico, perché a furia di fare le celebrazioni degli eventi storici ci si dimenticano le storie legate a quelle date, sì. storie di persone, quindi che la politica, gli eventi, dietro ci sono le guerre, persone, sì. E questa per me è la cosa più importante, insomma, e poi questo legato a conseguenze, no? Noi per esempio sosteniamo il progetto Humus di Massimo Bonfatti, che da 30 anni va a Kiev, insomma tante piccole cose che riguardano storie, teatro, raccontare storie, ma che abbiano anche un gancio a volte sulla nostra realtà. Ecco, proprio a questo proposito, Elena, volevo chiederti: qual è stato il lavoro drammaturgico nel portarlo in scena? Il lavoro drammaturgico è stato quello, in sostanza, di cioè quando si ha a che fare con questi grandi scrittori o testimonianze, cioè, nel secondo caso io lo leggo totalmente, Nagasaki è proprio perché era quello che faceva Kyoko, no? Ha girato il mondo. Nel primo caso il lavoro è facile, perché sono già scritti così bene, sì. Che basta praticamente un po' sfrangiarli di alcune cose, però in realtà il lavoro drammaturgico è, io ho preso, il monologo della primo monologo della moglie del vigile, e quindi poi c'è la moglie, e poi ho preso varie testimonianze insieme, quindi ci sarà la moglie, che è proprio Yuja, una persona, e poi c'è il soldato e il bambino, perché alla fine i monologhi di Preghiera per Chernobyl sono tantissimi, il libro è proprio strutturato in monologhi, no? Sì. Monologo della donna che non vuole staccarsi dalla stufa, monologo di, no? E sicuramente le tre categorie di persone che mi hanno colpito, il primo vabbè è straordinario, è il più bello, è il più lungo, insomma, e poi gli altri sono i bambini soldati, c'erano anche gli anziani, però lo spettacolo è durato, diciamo che è un po' la parte che ho sacrificato, se no purtroppo diventava lungo, e dato che il tema è faticoso, secondo me c'è un tempo limite di un'oretta, sì, ad sì. ascoltare tanta intensità, sì, no? Sì. Quindi i bambini che non capivano, e i soldati che venivano mandati dall'Afghanistan, gli venivano proposto 3 volte lo stipendio per andare a fare, venite che facciamo i muratori, non è faticoso, e in realtà spalavano la fuliscine sopra il reattore, quindi insomma non è sopravvissuto quasi nessuno, quindi insomma erano voci di persone, secondo me questo è interessante. Senti Elena, in chiusura ci dai tutti i tuoi riferimenti web per questo lavoro e per la tua attività in generale? Sì, guarda, su Facebook Elena Arvigo, sì, e poi i miei recapiti. Beh no, insomma basta questo riferimento, c'è anche un sito internet? No, non ho il sito internet, lo farò a breve perché è importante, dato che capisco che diciamo che sia ormai fondamentale avere dei luoghi dove illustrare le proprie attività, diciamo. Sì, comunque sì, vi ringrazio, la radio è sempre un momento straordinario per parlare, per me la mia compagnia è la radio, non è la televisione, ecco. E allora magari una delle prossime puntate potremmo dedicarla a uno dei tuoi lavori, se lo trovi, se ti piace l'idea e se lo trovi radiofonico, si potrebbe fare. Assolutamente. Bene. Molto molto volentieri, io sono proprio una sempre stata, grazie alla mia nonna che non vedeva e che quindi io ho passato molto della mia adolescenza con lei ad ascoltare la radio, mi ha insegnato la nonna ad ascoltare la radio proprio. Allora ricordiamolo, Elena Arvigo con i monologhi dell'Atomica al Teatro di Villa Torlonia domenica 26 novembre, l'ora è alle 21? O no, è pomeridiana? No, alle 17. Alle 17, benissimo. Allora un abbraccio e a presto. A prestissimo, grazie mille di questo spazio ancora, grazie. Ciao Elena, ciao.